sulla parte si sapeva. Leggo le casine. Ormai vediamo per il. Belo. Però vai. Oh, quello. Ma non ti dico, voglio tu. Sì, lo vero. Camleu.